Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Sulla legge elettorale sono stati respinti gli emendamenti della minoranza del PD, ma la spaccatura nel partito resta profonda. Renzi dice con l'Italicum avremo stabilità. E intanto il Presidente del Consiglio arriva a Davos per il World Economic Forum. L'Italia non sia un museo, ma un laboratorio di esperimenti. E sull'Europa, se è solo burocrazia, è la sua fine. Sale su un autobus e pugnala 12 persone a Tel Aviv. È un attentato. Hamas parla di atto eroico e coraggioso. Per Netanyahu è colpa di Abu Mazen. Terrorismo, arriva la circolare della polizia, aumentano i controlli alle frontiere. La Francia presenta le contromisure, 425 milioni in 3 anni per rafforzare la sicurezza. La crisi è finita, siamo risorti, dice il presidente americano Obama nel discorso sullo Stato dell'Unione. Promette sgravi fiscali a chi ha meno e una lotta serrata a terrorismo e ISIS. La crisi del Milan, Berlusconi sarebbe furioso, tornano voci di vendita della squadra, scrive oggi un quotidiano. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre i nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno e naturalmente durante la diretta il numero di sms 349-238-6666. Iniziamo anche oggi dalla politica e dallo scontro, che è soprattutto uno scontro all'interno del Partito Democratico, anche se in numeri in Senato al momento sembrano dar ragione alla maggioranza. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, ed è così, diciamo subito che il percorso parlamentare della legge elettorale vira al sereno. Sono stati respinti infatti gli emendamenti a firma Gotor, tra i dissidenti, lo ricordiamo, del Partito Democratico, ed intervenuto questa mattina a Radio 24 proposte di modifica che puntavano a rivedere la proporzione tra nominati ed eletti con il sistema delle preferenze a favore logicamente di queste ultime e correzione ai cosiddetti capilista. Siamo in attesa quindi del voto dell'emendamento Esposito, senatore vicino a Renzi, che spazzerebbe via tutti gli emendamenti presentati all'Italicum, ben 48.000. Il testo si avvierebbe così al via libera probabilmente nei primi giorni della prossima settimana. Comunque vada, resterà un solco nel PD con la minoranza, rottura destinata ad influire sul prossimo voto sul Presidente della Repubblica. Da Davos, tuttavia, dove in visita il Presidente del Consiglio Renzi ribadisce: questa è la stagione delle riforme che servono all'Italia. Sentiamo. Oggi i parlamentari italiani, come tutti i cittadini italiani, lavorano su tanti temi importanti. La Camera lavora sulla riforma costituzionale, il Senato lavora sulla legge elettorale, le commissioni vanno avanti, ieri si è discusso sulla pubblica amministrazione. Di fatto il percorso di cambiamento che l'Italia ha iniziato sta continuando, è giusto che sia così, è doveroso che sia così e noi non ci fermiamo. Poi ci sono polemiche, discussioni, è normale, ma non si molla di un centimetro. Abbiamo promesso agli italiani che avremmo restituito orgoglio, speranza e onore al nostro paese, lo stiamo facendo. Vincenzo Miglietta, spaccatura all'interno del Partito Democratico, ma non solo in realtà, perché tensioni si registrano anche nel centrodestra, in Forza Italia. Sì, soprattutto in Forza Italia. In realtà dalle votazioni di questa mattina non sembra ci siano state molte defezioni proprio negli azzurri. Resta il no dei fittiani all'Italicum. Insieme a tanti amici, ha ricordato l'ex presidente della Regione Puglia, faremo tutto il possibile per evitare che Forza Italia, nata per dare voce al centrodestra liberale, muoia come piccola lista civica renziana. Queste le parole di Fitto, e anche qui dovremo poi vedere la prova dei fatti nel voto sul capo dello Stato della prossima settimana. È tutto. E grazie a Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti. Tra poco, tra l'altro, andremo anche a Davos, da dove, come avete sentito, ha parlato il Presidente del Consiglio Renzi, non solamente di questioni italiane, ma anche di Europa e dell'Italia stessa. Sull'Italia però restiamo per l'allerta terrorismo. Sono state rinviate ieri le norme, ma è arrivata questa mattina un'importante circolare della polizia. Nel frattempo anche la Francia presenta il suo piano per contrastare quella che ritiene essere una vera emergenza. 9 persone sono state pugnalate oggi a bordo di un autobus a Tel Aviv. Potenziare e ottimizzare i controlli alle frontiere in entrata e in uscita dall'Italia è quanto dispone la nuova circolare diffusa dalla Direzione Centrale della Polizia dell'Immigrazione, un ulteriore intervento messo in campo dal Viminale per contrastare la minaccia del terrorismo islamico nel nostro paese. Nella circolare si chiede di procedere anche al sistematico accesso alle banche dati per rendere più efficaci i controlli. Sul fronte normativo, salvo nuovi rinvii, il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare domani il decreto con le misure antiterrorismo annunciate nei giorni scorsi dal ministro dell'Interno Alfano. Il premier francese Valls, intanto, dopo gli attentati di Parigi, stamattina ha annunciato la creazione di 2.600 posti di lavoro e un ulteriore stanziamento di 425 milioni di euro nei prossimi 3 anni per combattere il terrorismo islamico. Una parte delle nuove risorse sarà utilizzata per contrastare le azioni di reclutamento da parte dei gruppi jihadisti. Valls ha spiegato che gli individui radicalizzati coinvolti in qualche modo nella jihad e pronti a colpire sul territorio francese sono oltre 1.300 e il loro numero è in costante aumento. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Da qui ci spostiamo alle questioni internazionali e in particolare passiamo a parlare dello Yemen, perché è proprio da qua, è qua che si sarebbe addestrato e si è addestrato uno dei terroristi che ha colpito nelle settimane scorse a Parigi. Gli aggiornamenti di queste ore ci parlano di un colpo di Stato sostanzialmente concluso, perché i ribelli sciiti hanno preso il controllo del palazzo presidenziale mentre il presidente si troverebbe nella sua residenza nei sobborghi della capitale. Secondo le dichiarazioni del leader degli stessi ribelli, il governo avrebbe armato Al-Qaeda. Su questo scenario si muovono molti attori, a partire da Arabia Saudita e Iran, passando naturalmente per gli Stati Uniti, che hanno inviato 2 navi da guerra nel Mar Rosso e sono pronti ad evacuare il personale di ambasciata. Ci torneremo più avanti nel corso della trasmissione, ma intanto continuiamo a parlare di terrorismo, ma in questo caso a Tel Aviv, dove un uomo ha pugnalato i passeggeri di un autobus. Sentiamo. 9 persone sono state pugnalate oggi a bordo di un autobus a Tel Aviv. L'aggressore è un giovane palestinese di 23 anni, originario di Tulkarem in Cisgiordania, fermato subito dopo essere stato ferito a una gamba da colpi d'arma da fuoco sparati da alcuni agenti. Hamas da Gaza ha definito l'attacco di Tel Aviv eroico e coraggioso. Per il premier israeliano Netanyahu, l'attentato è invece la diretta conseguenza della velenosa campagna di incitamento del presidente Abu Mazen contro gli ebrei e il loro Stato. Anche il ministro degli esteri israeliano Lieberman è intervenuto dicendo che i mandanti sono i leader palestinesi e arabo-israeliani che incitano all'odio contro gli ebrei. Il loro scopo è quello di eliminare lo Stato ebraico, ha ribadito Lieberman. In Israele sale così la tensione prima delle elezioni legislative del prossimo 17 marzo, dopo la crisi di governo voluta dal premier Netanyahu. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è una crisi internazionale che abbiamo dato per persa, per dimenticata, forse per qualche settimana e forse troppo, è quella ucraina, che torna prepotentemente all'attenzione in queste ore perché sono sostanzialmente ripresi i combattimenti. Abbiamo in studio con noi Gigi Donelli per fare un punto. Gigi. Sì, sono anche peggiorati, perché si è passato dal combattimento su quella che viene chiamata linea di contatto, di fatto la linea del fronte, ai veri e propri bombardamenti con colpi d'artiglieria. Solo questa mattina 5 civili uccisi, uno dei quali un bambino di 4 anni, Artyom, ucciso mentre faceva colazione, doveva andare all'asilo. Il padre rientrava dal turno di notte, perché questo è anche un aspetto di questa tragedia nell'Europa centrale, che è una parvenza di vita continua. Quindi il padre è rientrato e si è ritrovato appunto l'appartamento sventrato. L'artiglieria colpisce pesantemente, le accuse sono reciproche, perché è ancora in corso la grande battaglia, quella che ormai da 9 mesi viene combattuta per il controllo dell'aeroporto. Aeroporto di Donetsk, nuovo di zecca per gli europei del 2012, ora davvero un cumulo di macerie, però è all'interno del territorio dei filorussi, della cosiddetta Novarossia, ed è controllato da truppe ucraine, quindi quanto basta per essere un grande campo di battaglia. Soluzioni al momento non se ne profilano, sì Gigi? No, soluzioni non se ne profilano. Ti segnalo 2 aspetti. Questa mattina naturalmente abbiamo parlato del discorso di Obama. Ecco, i media ucraini hanno notato questa mattina, pur avendo un rapporto di grande amicizia con gli Stati Uniti, che Obama ha dedicato una riga all'Ucraina, quindi la più grossa crisi nell'Europa di oggi. Stamattina questo probabilmente permette anche alla Russia e a Lavrov, in particolare il suo ministro degli esteri, di rilanciare la posizione di Mosca. Questa mattina Lavrov ha sostanzialmente detto 2 due cose. Noi abbiamo pronto un piano di pace, siamo pronti a levare l'artiglieria, ma intanto i combattimenti va avanti. E poi ha sottolineato come, dal secondo la Russia, il fronte delle sanzioni si stia sbriciolando. Ecco, forse Lavrov esagera o fa comunque un auspicio, ma è chiaro che anche certe iniziative recentissime di Madame Pesk, per intenderci, Federica Mogherini, stanno effettivamente inducendo questa idea. Cioè, alla domanda quanto vale l'Ucraina attualmente, la risposta è poco. Grazie a Gigi Donelli per questi aggiornamenti e per questa analisi. Noi torneremo tra un attimo sul discorso sullo Stato dell'Unione del presidente americano Barack Obama, che sarà tra l'altro al centro anche di America 24, ma passiamo intanto alle notizie economiche. Una di poco fa innanzitutto: il commissario straordinario ha depositato questa mattina presso il Tribunale di Milano, e parliamo dell'ILVA, l'istanza per ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria. Lo comunica la gestione commissariale. Al centro della cronaca economica in queste ore resta la decisione dell'esecutivo per quel che riguarda le banche popolari. Il servizio. Mentre le popolari strappano ancora in borsa, l'Etruria questa mattina guadagna addirittura il 20%, emergono nuovi dettagli sul piano del governo per trasformare questi istituti in SPA, abolendo il voto capitario. Il testo del decreto, rivelato dall'agenzia Radiocore, prevede infatti che spetti alla Banca d'Italia dettare le disposizioni di attuazione del nuovo articolo 29 del testo unico bancario. Una volta entrate in vigore queste disposizioni, scatterà il conto alla rovescia che dà alle banche 18 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove norme. In ogni caso, ed è questa un'altra novità rilevante, il provvedimento del governo abbassa drasticamente a 2/3 il quorum previsto in assemblea per la trasformazione delle banche popolari in SPA o per fusioni tra di loro. Uno scenario, quest'ultimo, sul quale scommettono ormai molti analisti, che vedono in futuro due grandi poli aggregati attorno a UbiBanca e Banca Popolare di Milano. In tutto ciò non mancano le voci fuori dal coro e che non plaudono al decreto del governo. Secondo Lando Sileoni, segretario generale della FABI, la riforma delle popolari mette a rischio posti di lavoro per l'inevitabile avvio di aggregazioni. Secondo i ministri Angelino Alfano e Maurizio Lupi, si è trattato in ogni caso di un provvedimento affrettato che riguarda proprio gli istituti più a stretto contatto con le PMI. Ciò Connina da Radio Corp per Radio 24 e Sole 24 Ore. Siamo, come si diceva, al discorso sullo Stato dell'Unione del presidente americano Barack Obama col nostro Mario Platero, che poi ritroveremo naturalmente dopo. Mario. Sì, eccoci Simone. Beh, devo dire, un discorso d'annata quello del presidente Barack Obama di ieri notte. Ne parlerò poi in modo più dettagliato più avanti durante America 24, ma mi ha colpito su vari livelli. Intanto questa idea del voltare pagina dopo 15 anni di problemi, di difficoltà, di attentati terroristici, di recessioni senza precedenti, di guerre. Ecco, l'America oggi, dice Obama, sta voltando pagina e dunque deve guardare al futuro cercando di costruire queste nuove pagine che scriverà tenendo conto delle sfide. Qual è la sfida principale che ha enunciato Barack Obama? Beh, è quella di lottare per la classe media, di restituire alla classe media quel suo ruolo, quel suo reddito, quella sua dignità che, secondo il presidente, secondo i democratici, si sono perduti negli ultimi anni. Questo è stato il messaggio centrale. Ci sono poi dei messaggi di politica internazionale. C'è una cosa che mi ha colpito rivolgendosi ai repubblicani. Barack Obama ha detto: beh, avremo molte differenze e sicuramente litigheremo, però facciamolo dando credito alla dignità di questa istituzione, cioè del Parlamento e del popolo americano. Dunque facciamo un dibattito serio, non soltanto il muro contro muro. Ecco, questo è un messaggio importante per una capitale che litiga in continuazione. Per il resto, le sue proposte, devo dire, per aumentare le tasse, ad esempio, saranno respinte, ma sta già impostando la corsa del suo partito, dei candidati che lo seguiranno, diciamo, di Hillary Clinton per la Casa Bianca del 2016. Simone, a te la linea. Grazie, grazie dunque Mario Platero, che ritroveremo come sempre alle 13.45 in America 24, nella quale parleremo diffusamente del discorso di Obama. Chiudiamo questa parte parlando di calcio. Ovviamente girano un po' di notizie pure che riguardano la Coppa Italia, e poi girano un sacco di indiscrezioni su quello che Berlusconi vorrebbe fare del Milan. Addirittura il secolo XIX scrive che avrebbe detto ai figli: voglio vendere, basta. Carlo gente, l'ennesima volta la sentiamo questa però, eh? Sì, Simone, l'abbiamo sentita mille volte. Puntualmente arriva il ciclostile da Arcore, un comunicato che hanno nel cassetto, che tirano fuori in ogni occasione in cui si verifica questo. Non è ancora arrivato il ciclostile, quindi infatti le notizie rimbalzano qua e là. Si dice che Berlusconi sia stanco di tutto questo, addirittura avrebbe abbassato il prezzo di vendita del Milan a 500 milioni di euro, grosso modo, mi correggerei se sbaglio, l'ammontare dell'affare Mondadori. E comunque la notizia, fino alla smentita che forse arriverà, rimane in circolazione, e ogni minuto che passa si gonfia sempre di più. Cioè, certo, l'uomo è imbestialito, così lo descrivono. Beh, non potrebbe essere altrimenti, nonostante ieri è arrivata la smentita su quelle affermazioni che avrebbe fatto di Milan inaccettabile contro l'Atalanta, che peraltro è anche vero, cioè qualunque tifoso penso possa dire le parole del tifoso numero uno. Berlusconi non può essere contento di questo Milan. Inzaghi è in discussione ora per i rossoneri, sono due partite che sono la chiave probabilmente di questa parte della stagione, con la Lazio domenica in trasferta e poi con una Coppa Italia che assume sempre maggiore importanza, però certamente Berlusconi contento non potrà essere. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Legge elettorale, respinti gli emendamenti della minoranza del PD, ma la spaccatura nel partito resta profonda. Intanto il Presidente del Consiglio arriva a Davos per il World Economic Forum e dice l'Italia non sia un museo ma un laboratorio di esperimenti. Sale su un autobus e ferisce 9 persone a pugnalate a Tel Aviv. È un attentato. Hamas parla di atto eroico e coraggioso. Per Netanyahu è colpa di Abu Mazen. Terrorismo, arriva la circolare della polizia, aumentano i controlli alle frontiere, la Francia presenta le contromisure, 400 milioni in 3 anni per rafforzare la sicurezza. E parliamo in apertura di questa seconda parte di legge elettorale, di rapporti interni al Partito Democratico. Saluto Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico. Buongiorno senatore, benvenuto. Buongiorno a voi. State per votare il suo emendamento, tra quanto lo votate? Ma questo è di minuti e sono in corso di dichiarazione di voto, e quindi credo a minuti lo voteremo. Il suo emendamento, noto ormai come il canguro, perché permette di saltare tutti gli altri emendamenti all'Italicum, alla legge elettorale. Senta Esposito, mi sembra che come maggioranza del Partito Democratico possiate essere soddisfatti di come è andata la mattinata oggi, no? Ma io credo che la discussione sia stata una discussione anche seria, anche sugli emendamenti presentati dal senatore Gotor. Mi pare evidente che il PD ha scelto una linea politica non da oggi e deve mediare inevitabilmente, perché una legge elettorale, se la vuoi fare da solo, devi avere il 51%. Poi noi abbiamo sempre detto che le regole le scriviamo insieme agli altri. Io penso che il punto di caduta della legge elettorale sia un fatto positivo. Lo dico a partire dal fatto che io sono un eletto col Porcellum e ci siamo sempre presi l'impegno nei confronti dei cittadini di modificare questa situazione. La Corte Costituzionale ci ha dato una mano, oggi mettiamo in campo una legge che comunque produrrà almeno il 55-60% di eletti con le preferenze, è la legge migliore possibile, per carità, c'è sempre di meglio, intanto è un grande passo avanti. Senta senatore, lei ha definito addirittura in un'intervista stamattina parassiti alcuni esponenti della minoranza del PD. No, ma guardi, io in realtà ho fatto un altro ragionamento, comunque come ho già detto non è nel mio stile offendere i colleghi. Io ho fatto un ragionamento sul rischio di parassitismo politico che si genera all'interno di un partito dove le regole non vengono rispettate. Io su questo sono fermo, non da oggi, è un tema che ho posto nel gruppo al Senato già ai tempi del governo Letta. Cioè io credo che se si sta in una comunità, e il partito con un'associazione è una comunità, bisogna fare la battaglia aspra, dura, portare avanti le proprie posizioni, però poi ad un certo punto si arriva ad un punto di caduta. E si vota, se c'è una maggioranza che determina una linea, la minoranza, dopo aver fatto la propria battaglia, si adegua. Il continuo distinguersi, il continuo chiamare in causa questioni di coscienza, lei mi perdonerà se non riesco proprio a inserire la legge elettorale tra le questioni di coscienza, significa non voler stare insieme e cercare la rottura e quindi lavorare contro il partito che io amo definire ditta, sì, da vecchio bersaniano. Quindi in realtà diciamo non mi piace mai dire che i giornalisti scrivono altro, sicuramente se... mi sono espresso male, ma il mio concetto di parassita non mi appartiene. Senta senatore, è convinto che i suoi colleghi della minoranza lasceranno il partito alla fine, sì? No, guardi, io penso che molti di loro non lo faranno, auspico che alcuni, a cominciare da Pippo Civati, che tutti i giorni in onda ai giornali con interviste, le ultime che ho letto riguardano il fatto che anche la mamma gli ha chiesto di andare via dal PD, farebbero bene a lasciare questo partito, perché se poi te lo chiede la mamma, credo che la mamma non vada mai delusa. Quindi se la mamma di Civati glielo chiede, lasci il partito lui, come altri lui pensa... ma guardi, adesso per essere seri, Civati parla tutti i giorni di Renzi come neanche avrebbe mai parlato di Berlusconi. Io non credo che si possa stare in un partito immaginando che avendo l'idea che il tuo segretario, il tuo presidente del consiglio è un uomo di destra peggio di Berlusconi. Onestamente credo non ci siano più le condizioni per lui, dopodiché immagino che gli faccia ancora comodo stare nel PD perché gli garantisce visibilità. Grazie al senatore Stefano Esposito del Partito Democratico. Le auguro una buona giornata, un buon lavoro e naturalmente un buon voto. Vittorio D'Aroldi, inviato del Sole 24 Ore a Davos. Buongiorno Vittorio, eccoci. Buongiorno a voi. Allora, di quello che ha detto Renzi a proposito di legge elettorale abbiamo già parlato nella prima parte della trasmissione, vorrei capire un attimo che cosa ha detto sul resto e soprattutto come si prospetta la giornata di lavori al World Economic Forum. Sì, oggi Matteo Renzi ha cercato di convincere la platea dei 2500 delegati, tra cui ci sono il GOTA della finanza italiana, i banchieri più importanti, che è giunto il momento di investire in Italia. Ha parlato di carpe diem, quindi di cogli l'attimo del poeta latino Ovidio, come elemento da non farsi perdere prima che i prezzi poi, che oggi sono relativamente bassi, possano poi ripartire, quindi rendere meno significativa un investimento nel paese. La politica è tornata, ha detto Renzi, abbiamo quindi una leadership forte, stiamo lavorando a un nuovo rinascimento italiano, e ha elencato tutte le varie riforme che il governo italiano sta facendo e ha già fatto, dal Job Act appunto alla riforma fiscale, alla riforma della giustizia, tutti i temi che qui sono naturalmente stati ascoltati in un silenzioso attentissimo riguardo, perché naturalmente quando un paese fa quelle famose riforme strutturali che da tanto tempo annuncia ma poi non vengono mai attuate, questo è il momento di investire o comunque di dare una maggiore attenzione verso questo paese. E naturalmente speriamo che sia così. Vittorio, per il resto i lavori del World Economic Forum come procedono e su cosa verteranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Dunque, fondamentale naturalmente è che l'America è tornata prepotentemente alla crescita, mentre l'Europa ancora è stagnante, se non appunto in alcune parti recessione. Quindi la vera questione è come far ripartire l'Europa. Tutti parlano di quantitative easing, che appunto la Banca Centrale Europea dovrebbe far partire, ma Rogoff, ad esempio l'economista americano, dice che è solo un passo, manca ancora molto, mancherebbe appunto la famosa politica fiscale, su cui però, come tutti sappiamo, la Germania si oppone. L'elemento è quindi di avere maggiori investimenti internazionali in Europa. Europa che preoccupa anche dal punto di vista politico, perché domenica ci sono elezioni in Grecia che potrebbero appunto determinare qualche novità nella composizione del club dell'euro, e poi si parlerà molto di energia, di prezzi del petrolio, quanto questo prezzo del petrolio potrà durare. Quindi è una serie di elementi tutti abbastanza concatenati, il cui tema fondamentale è gli Stati Uniti sono riusciti a ritornare prepotentemente nella crescita, l'Europa manca ancora l'appello. Grazie a Vittorio D'Arold, inviato del Sole 24 Ore a Davos, dove si svolge il World Economic Forum. E adesso torniamo invece su una vicenda della quale ci siamo già occupati in passato, la ricorderete, la vicenda dei bambini adottati in Congo da famiglie italiane. Una parte di questa vicenda si era conclusa ricorderete anche la scena per le polemiche che suscitò con il ministro Maria Elena Boschi, che era andata in Congo ed era tornata con un aereo portando alcuni di questi bambini congolesi adottati da famiglie italiane, ci sono degli altri bambini che restano là, che restano in Congo, pur di fatto avendo un via libera legale, per così dire, all'adozione, nonostante il blocco che era arrivato dalle autorità di Kinshasa. Ebbene, è successo che 22 di questi bambini sarebbero stati spostati, lo riferisce il Fatto Quotidiano, durante la notte da un orfanotrofio di una ONG a una struttura internazionale di Kinshasa. Saluto l'avvocato Pier Francesco Torrisi, che rappresenta tre delle famiglie che hanno adottato tre di questi bambini, evidentemente. La saluto, avvocato, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci può spiegare cosa è successo e che cosa sta succedendo? Guardi, in merito al blitz mi riferiscono appunto le coppie che, semplicemente chiamando il Ministero degli Esteri, il Ministero degli Esteri ovviamente in via informale telefonica ha confermato la presenza, l'effettivo blitz di questi bambini, quindi che sarebbero appunto stati spostati da una struttura all'altra. Ieri invece appunto leggiamo il comunicato CAI che appunto smentisce questo blitz. Ma cosa significa, cosa significherebbe questo spostamento? Lo spostamento potrebbe evidentemente compromettere i buoni rapporti tra l'Italia e il Congo. Vero è che, essendo due, regna un po' di confusione. Noi ovviamente ci rifacciamo alla CAI, perché è l'organismo competente per le adozioni internazionali, ma le coppie sono un po' confuse. E chi l'avrebbe effettuato questo spostamento? La Farnesina medesima? Su questo ovviamente non saprei dirle, perché ovviamente sono... Dico, la Farnesina o intendo, per Farnesina intendo autorità italiane o autorità congolesi? Cioè chi? Autorità, si presume siano delle autorità italiane che appunto abbiano effettuato questo spostamento, ma siamo sempre nell'ambito ovviamente delle ipotesi. E delle illazioni, chiaramente. Non confermare, ci mancherebbe altro, ovviamente. Noi ci rifacciamo alla CAI. Però è chiaro che se il Ministero degli Esteri da queste informazioni evidentemente si poggerà su qualche base. A cosa preluderebbe? A un ritorno di questi bambini? Più che a un ritorno, a un arrivo in Italia di questi bambini? Guardi, i bambini hanno già il cognome, almeno per una parte delle coppie, dei genitori italiani. Questo ovviamente potrebbe compromettere ulteriormente la riapertura delle porte verso l'Italia, se così è stato, ovviamente. Sì. Quindi un blitz che potrebbe appunto mandare alla rovina il lavoro fatto. E i rapporti con il Congo? Perché non ci sono solamente questi 22 bambini, immagino, a questo punto, da come me la sta raccontando lei. Sostanzialmente i paesi coinvolti più importanti sono Stati Uniti, Belgio, Francia, e nei vari mesi appunto abbiamo assistito, l'ultimo incontro è stato del 19 gennaio tra l'ambasciatore a Kinshasa e alcune coppie americane. Quindi ci sono dei fermenti e ovviamente noi ci auguriamo che i bambini possano rientrare in Italia e possano riabbracciare i propri genitori. No, mi scusi, giusto per chiarire, da un punto di vista anche diplomatico e politico, nel caso questi 22 bambini venissero, per così dire, presi e portati in Italia, ci sono altri bambini che a quel punto sarebbero a rischio di adozione, a rischio di essere bloccati dalle autorità congolesi? Diciamo che ovviamente il governo italiano non può agire sul governo congolese, essendo ovviamente due stati autonomi e indipendenti. È chiaro che però i buoni uffici tra le due nazioni potrebbero portare ad uno sblocco. Certo è, un blitz, se ovviamente fosse confermato, è chiaro che l'autorità congolese potrebbe ulteriormente chiudere i rapporti, però la CAI ci ha detto che non è così e quindi vedremo che cosa succederà. Grazie a Pier Francesco Torrisi, avvocato, esperto di adozioni internazionali, che sta seguendo tre delle famiglie che stanno aspettando quelli che a questo punto sono i loro figli, come avete sentito, visto che hanno anche il loro cognome. Ci fermiamo, c'è una pausa per la borsa, ci ritroviamo appunto per i mercati e poi subito dopo parleremo dello Yemen e parleremo di Diego Armando Maradona, perché è stato chiesto il processo per diffamazione ad Equitalia. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sulla legge elettorale sono stati respinti gli emendamenti della minoranza del PD, resta profonda la spaccatura all'interno del partito, si attende il voto sull'emendamento che dovrebbe sostituire tutti gli altri. Sono state rese note le nuove regole del Campidoglio dopo Mafia Capitale sugli appalti: non ricorrere più se non in casi di emergenza all'assegnazione di appalti senza gara, cercando di utilizzare al massimo la rotazione dei componenti delle commissioni giudicatrici. Sul terrorismo arriva la circolare della polizia: aumentano i controlli alle frontiere. È salito su un autobus a Tel Aviv e ha pugnalato 9 persone. È un attentato. Hamas parla di atto eroico e coraggioso. La borsa. Borse in diretta. Intorno alla parità gli indici, poco sotto, meno 0,08% il FTSE MIB, meno 0,05% il FTSE OSHER, va peggio Francoforte che cede lo 0,42%, Parigi lo 0,43%, e complessivamente ancora toniche le banche popolari. Isabella Tasso, Radio Cuore, il Sole 24 Ore, così no? A Piazza Affari tiene ancora banco il tema delle banche popolari dopo il decreto del Consiglio dei Ministri che prescrive appunto a 10 istituti con attivi oltre 8 miliardi la trasformazione in SPA entro 18 mesi. Il resto del listino, come dicevi, è poco mosso. Piazza Affari in realtà si trascina stancamente a fine mattinata, mentre gli investitori preferiscono aspettare l'esito della riunione della Banca Centrale Europea di domani. Gli spunti positivi appunto sono solo quelli delle popolari: Banca Etruria in particolare balza del 20% quasi, ma non sono da meno Popolare di Sondrio più 6%, Creval più 7%, nel listino principale Pop Emilia fa più 4,7%, Banco Popolare più 4%. Restano un passo indietro UBI che fa più 1% e Popolare di Milano che fa un più 2,7%. Questi due istituti sono visti dagli analisti come potenziali aggregatori nel caso di creazione di super popolari. Grazie, grazie ad Isabella Tasso di Radio Cuore, il Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E vogliamo parlare adesso dello Yemen. Sono 18 le vittime da lunedì. Ieri i ribelli sciiti hanno preso il controllo del palazzo presidenziale, come sapete. Questa mattina hanno preso il controllo di una base missilistica. Il presidente si troverebbe nella sua residenza, nei sobborghi della capitale. Lo stesso leader dei ribelli, dice il governo, ha armato Al-Qaeda. Saluto Pietro Batacchi, che è direttore della rivista italiana di difesa. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, su questo scenario, Batacchi, si muovono molte entità estere, per così dire: Arabia Saudita e Iran probabilmente in sostegno di questi ribelli, dall'altra parte gli Stati Uniti che hanno collaborato strettamente con il governo yemenita per utilizzare le basi e colpire coi droni esattamente Al-Qaeda, che là ha basi molto potenti. Che cosa rappresenta in questa fase, in questo momento e con questa lotta al terrorismo che sta ripartendo, quello che avviene nello Yemen? Io credo che in realtà in questo momento in Yemen ci sia un cambiamento dello scenario, ovvero se ci ricordiamo, nel 2010 l'Arabia Saudita intervenne a fianco del governo yemenita proprio per stroncare la ribellione degli Houthi, che venivano considerati gli sciiti Houthi, che venivano considerati una sorta di cavallo di Troia di Teheran e dell'Iran nell'area. Questa volta, e qui credo sia il dato più importante di questa escalation della crisi, l'Arabia Saudita è rimasta a vedere, e lo ha fatto essenzialmente perché nello Yemen adesso non ci sono più quelle condizioni che c'erano 3 anni fa, ma c'è un partito, l'Isla, che è il partito che in qualche misura sostiene il governo, che è il rappresentante locale della Fratellanza Musulmana. La Fratellanza Musulmana sunnita, che non dimentichiamo, la stessa Arabia Saudita sta combattendo in tutto il Medio Oriente, dalla Libia fino alla Siria e così via. Quindi, per non fare un piacere all'Isla, quindi per non fare un piacere alla Fratellanza Musulmana e, in ultima analisi, uno dei grandi protettori della Fratellanza Musulmana, cioè il Qatar, L'Arabia Saudita questa volta ha lasciato fare che gli Houthi sciiti entrassero a Sana'a, dove peraltro erano entrati già da settembre, e tenessero in scacco il governo e il presidente Ali. Sul fronte della lotta al terrorismo internazionale, perché abbiamo visto che i legami di Al-Qaeda nello Yemen con i terroristi di Parigi erano molto stretti, che cosa cambia, Batacchi, nel caso gli sciiti riescano a mantenere il potere? Guardi, attualmente lo Yemen si può dire, come abbiamo fatto peraltro anche noi già stamattina su un articolo che abbiamo dato alle stampe sul nostro sito www.rid.it, si può dire che il paese sia diviso in due, per cui la parte centro-nord, centro-settentrionale, controllata di fatto dagli Houthi, quindi dagli sciiti Houthi, e la parte meridionale di fatto controllata da alcune tribù e soprattutto da ACAP, che è il franchising locale di Al-Qaeda in sostanza. Lo Yemen, per cui in queste condizioni continuerà ad essere un hub di Al-Qaeda, delle organizzazioni terroristiche, ma questo hub si inserisce in una situazione di grande instabilità e di netta separazione del paese, come peraltro voglio dire è la storia del paese stesso, è sempre stato diviso tra nord e sud. Grazie. Non è una novità. Grazie a Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana di difesa. Angelo Pisani, avvocato di Diego Armando Maradona, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. La Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti del suo assistito per l'accusa di diffamazione ai danni dell'ex presidente di Equitalia, Attilio Befera. Come ha accolto la notizia il suo assistito? Ma diciamo che è un'altra buona possibilità per accertare la verità e quindi costringere coloro i quali hanno denunciato Maradona per essersi difeso da una pretesa ingiusta a far venire fuori qual è la realtà. La notizia dovrebbe essere un'altra, che oggi i giudici italiani hanno sospeso le pretese tributarie e le esecuzioni settoriali nei confronti di Maradona, che quella pretesa del fisco non solo non è mai esistita, ma è anche stata pagata. Ma perché l'hanno sospese? Le hanno sospese perché appunto non esistita mai una violazione fiscale da parte di Maradona nei confronti del fisco, non è, tra l'altro quella presunta violazione è stata già pagata dal Calcio Napoli, come abbiamo dimostrato con una perizia tecnica davanti ai giudici tributari, e oggi sia l'esecuzione sia la pretesa è sospesa dai giudici in attesa di una sentenza definitiva che chiarisca finalmente dopo 25 anni questo grande equivoco. Quindi ben venga un processo penale dove eccepiremo appunto la verità, abbiamo il diritto di far valere la verità, e si vedrà che mai nessuna diffamazione c'è stata nei confronti di Equitalia, ma solo l'esercizio di un diritto di difesa, di denuncia rispetto a delle accuse e a delle pretese ingiuste. Grazie Angelo Pisani, avvocato di Maradona, buona giornata. Il traffico. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È il momento di Mario Platero. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Barack Obama ha parlato ieri notte all'America, agli americani, dal podio del Parlamento riunito in solenne seduta plenaria, e ha chiesto ai suoi connazionali di voltare pagina dopo 15 anni, ha detto, di crisi. Ha sfidato i repubblicani. Il suo discorso è stato dedicato soprattutto alla classe media, un discorso contro la sperequazione e con una promessa: nei 2 anni che gli restano chiuderà quel gap, quella insoddisfazione di fondo che riguarda la maggioranza degli americani, quelli che poi leggono di una ripresa economica a tutto gas senza avere mai l'impressione di viverla. Peccato però che i repubblicani, a partire dalla risposta che hanno dato subito dopo il discorso, hanno già detto di no a quasi tutto, a partire dalla proposta di Obama per aumentare le tasse. Sentiamo il presidente. We are 15 years into this new century. 15 years that dawned with terror touching our shores, that unfolded with a new generation fighting two long and costly wars. Ecco, avete sentito Barack Obama che dà un po' il quadro del voltare pagina. Dice: questo secolo ha compiuto 15 anni, 15 anni che si sono aperti con il terrore sulla nostra terra, che hanno prodotto due lunghe, sanguinose guerre, che hanno visto una recessione ramificarsi nel nostro paese e nel mondo. È stato un periodo duro, durissimo per molti. E poi il presidente si è rivolto in qualche modo a chi parlava del declino americano e dice: oggi siamo più liberi di qualunque altro paese di scrivere il nostro futuro, starà a noi decidere cosa sarà del nostro futuro. E poi le proposte legate soprattutto all'economia, come vi dicevo, tutte inquadrate nel contesto di un benessere che dopo i sacrifici dovrà essere condiviso. Il motivo di fondo in questo periodo resta, come vi dicevo, quello della sperequazione. Sentiamo di nuovo il presidente Barack Obama che parla di economia. Tonight, after a breakthrough year for America, our economy is growing and creating jobs at the fastest pace since 1999. Questa notte, dice Obama, dopo un anno di svolta per l'America, la nostra economia sta crescendo, creando posti di lavoro al ritmo più rapido dal 1999. Il nostro tasso di disoccupazione è sui livelli più bassi da prima della crisi finanziaria. Abbiamo più laureati che mai, più persone che mai coperte dall'assicurazione sanitaria. Siamo liberi dalla dipendenza del petrolio straniero e come non lo siamo mai stati in 30 anni. Questa notte, per la prima volta dall'11 settembre, la nostra missione di guerra in Afghanistan è finita. Sei anni fa avevamo 180.000 soldati in Iraq e in Afghanistan, oggi ne abbiamo meno di 15.000. E poi, rivolgendosi agli americani, proprio rivolgendosi all'America, ha detto: America, per tutto quello che abbiamo passato, per tutte le difficoltà, il duro lavoro per rialzarci, per tutte le sfide che si aprono davanti a noi, sappiate che l'ombra della crisi è passata e che lo Stato dell'Unione è forte. Ecco, devo dire, questi messaggi sono sempre molto, molto solenni, sono di forte, di alto contenuto emotivo. Il presidente ha lavorato a questo discorso per almeno due o tre settimane e qui c'è un messaggio che non è soltanto economico ma è anche politico. Barack Obama ha pescato molte delle idee contenute in questo discorso da un paper scritto da un suo amico, dall'economista Larry Summers, che è stato anche segretario al Tesoro, che ha lanciato questa idea del capitalismo inclusivo. E dunque, di fondo, il presidente chiede che i benefici della crescita siano condivisi da tutti. My first duty as commander-in-chief is to defend the United States of America. Ecco, Obama ha dedicato alle questioni internazionali soltanto la seconda parte del suo discorso. Vi ripeto, il discorso sullo stato dell'Unione è un discorso soprattutto di politica interna, è il discorso che fa da preambolo alla presentazione del bilancio per il prossimo anno fiscale e in questo caso fa da preambolo anche alla sfida elettorale per il 2016. Io credo che Obama avesse in mente soprattutto quello quando ha preparato questo discorso, più che una idea vera e, come dire, sincera, potremmo dire, di aprire un dialogo con i repubblicani. Ecco, e parlando di questioni internazionali, ha ricordato la svolta di Cuba, le battaglie che il paese dovrà affrontare contro l'ISIS, quella del terrorismo in casa, della sfida dell'Ebola e così via, così via. Ma uno dei punti, devo dire, che mi ha colpito di più è stato quello che Barack Obama ha voluto dedicare alla Russia, e questo mi ha molto interessato anche perché ci riguarda in qualche modo direttamente. Ha parlato del bullismo del presidente Putin. Sentiamolo. Last year, Mr. Putin's aggression, it was suggested, was a masterful display of strategy and strength. That's what I heard from some folks. Quando con i nostri alleati annunciavamo le sanzioni per difendere la democrazia ucraina dall'aggressione della Russia, c'era chi suggeriva che l'aggressività del signor Putin fosse un'abile dimostrazione di strategia e di forza. Bene, oggi è l'America ad essere ferma e unita con i suoi alleati, mentre la Russia è isolata con la sua economia a pezzi. È così che l'America mostra la sua leadership, non con delle spacconate, ma con una quieta, persistente determinazione. Questo è un messaggio molto chiaro, secondo me, anche per chi fra gli alleati, Italia inclusa, che naturalmente soffre più dell'America delle sanzioni, vorrebbe una eliminazione dell'embargo prima che la Russia rispetti ed applichi gli accordi di Minsk. Ieri Obama ha detto questo non sarà possibile. Ci sono poi molte proposte tecniche per aumentare soprattutto le tasse sui più ricchi. Obama chiederà nel suo bilancio introiti aggiuntivi per 320 miliardi di dollari, vuole colpire le tasse sugli aumenti di capitali per chi ha redditi superiori ai 500 mila dollari dal 23,3 al 28%, ma di questo parleremo poi in altre occasioni, perché come vi dicevo questo è un discorso anche soprattutto politico. Barack Obama sa che i repubblicani, come del resto hanno già detto, bocceranno quasi tutte le sue proposte, ma ha aperto un dibattito all'interno del paese, un dibattito che darà continuità non soltanto a quello che è stata la sua presidenza, ma a quello che dovrà essere il Partito Democratico, soprattutto nel 2016, quando si voterà per il nuovo inquilino della Casa Bianca. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più. Tempi difficili, come vi dicevo sempre, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Barack Obama ha fatto un appello all'unità del paese. Non so se questo appello sarà raccolto, ma so che la canzone che voglio proporvi oggi è quella proprio che riflette l'idea di stare insieme. E quindi, Come Together, dei Beatles. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Ed è tutto per Effetto Giorno. Prima di chiudere una notizia, l'Aula del Senato ha dato il via libera all'emendamento Esposito con 175 sì alla legge elettorale, 110 no e 2 astenuti. È tutto per Effetto Giorno, i ringraziamenti Paolo Corleoni in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre. Effetto Giorno @radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook, la trasmissione torna domani alle 13, noi ci risentiamo tra un attimo con GR24.